caso giustizia e il voto di fiducia su Bonafede, il dibattito e lo scontro sul via libera al fondo europeo da Francia e Germania, due piccole testimonianze, se volete, che il terzo giorno della cosiddetta fase 2 porta con sé accenni di normalità nel dibattito pubblico. Non che la questione Covid ne sia uscita, anzi, in fondo è tutto collegato, perché le scarcerazioni dei boss sono avvenute anche con il virus sullo sfondo e il Recovery Fund serve esattamente ad aiutare l'economia messa in crisi dalla pandemia. Poi c'è tutto il resto. Le ormai classiche foto dei ragazzi in giro a prendere aperitivi con annesse polemiche. Il caso sollevato a Codacons dei prezzi del caffè aumentati. Ma c'è anche tutto un capitolo giustizia scollegato dal virus, eh? Il gioco di pressioni e accordi che emerge dalle chat del PM Palamara per le nomine dei magistrati in posti di rilievo, gli arresti per il procuratore di Taranto accusato di corruzione. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. I'm free to do what I want in any old town. I'm free to do what I want in any old town. Sempre coi Rolling Stones iniziamo le nostre mattine. Da lunedì abbiamo però cambiato musica con questa I'm Free. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, sono le 6:33 minuti e 28 secondi, è mercoledì 20 maggio. Ci siamo. Con la task force di questa mattina, Carmelo Lauricelli regia, Anita Panizza e Giorgio De Luca in assistenza in redazione, insieme ad Alessandro Marco Tulli e Gloria Guerrera, sempre in redazione, Margherita Ine e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. E voi, il nostro gruppo di lavoro fondamentale, la nostra task force vera e propria. 349-238-6666, mi potete raggiungere con i vostri messaggi, WhatsApp, SMS, WhatsApp audio, le vostre voci, mi raccomando, Qualcuno già chiede, buongiorno, il decreto è stato pubblicato in Gazzetta? Sì, con le sue gloriose 383 pagine e 200 di relazione illustrativa. Vi confesso che ieri prima di andare a letto ho dato una scorsa alla relazione illustrativa, sì, mi faccio male anche in questo modo, del resto fa parte del mestiere. Perché questo è un paese nel quale quando scrivi le norme queste sono talmente complicate che c'è bisogno di una relazione illustrativa che è più o meno la metà del decreto. Così siamo, Quindi 583 pagine più 18 di allegati. Almeno per il momento. E servono, ci comunica il Sole 24 Ore di oggi, 98 decreti attuativi che a loro volta si comporranno di un discreto numero di articoli. Forse questa è un po', e lo diciamo da giorni, la grande emergenza nazionale è la burocrazia. Lo dicono tutti, poi però si fatica a metterci mano davvero. Iniziamo un po' più leggeri oggi. Con l'ascoltatore o l'ascoltatrice che mi scrive: la Azzolina e l'imbuto è il tema del giorno. Perché? Perché ieri la ministra dell'istruzione è intervenuta. O meglio l'altro ieri forse, facendo queste dichiarazioni che poi sono esplose ieri sui social, no? La storia dell'imbuto, qual è? Che gli studenti sono come un imbuto, non so cosa volesse dire, però gli studenti sono come un imbuto, però l'imbuto ha il buco sotto, sentiamo. Serve alla crescita della persona, perché la scuola serve a questo, non è un... un travaso di conoscenze che viene fatto. Lo studente non è un imbuto da riempire di conoscenze, è ben altro. Imbuto! Chi ha inventato il primo imbuto? Chi ha usato il primo imbuto per travasare l'acqua? Come faceva il primo imbuto? si servivano di uno solo o più due o più mbruti. Mbruto, su Reeducational Channel. Bella, bella Fulvio questa cosa del... Non ci avevo mai pensato, un imbuto, due imbuti. Vabbè, scusate, non ho resistito a questo Guzzanti dannata, Allora, caro Claudio Velardi, come stai? Buongiorno Claudio. Bene, grazie. Eccoci. Allora. Mi sento ottimista, hai detto che siamo nella normalità. Sì, beh, hai sentito, hai visto, no? Sì, allora, si ricomincia a discutere di giustizia, le beghe politiche, i rimpasti di governo, appunto lo scontro sull'Europa, attrazione franco-tedesca, insomma, no, si rientra in un clima che ti sembra a te? No, certo. Allora, guarda, la normalità arriva, diciamo, quando arrivano i soldi. Quando ci sono i soldi, diciamo la verità. Già. Non facciamo troppo gli schizzinosi, si vive meglio. Sì. E quindi le acque si chetano anche nella politica italiana, rissosa e inconcludente. Però, sai, siccome si annunciano una caterva di miliardi, allora tutti quanti stanno un po' più buonini. Sì, un po' più tranquilli. Questo sì, se ne discute tanto. Tra l'altro, tra poco avremo ospite la nostra amica Tonia Mastrobuoni, corrispondente per La Repubblica da Berlino. Ci faremo dare un quadro un po' della situazione. Bravissima Tonia. Ci faremo dare un quadro della situazione in Germania e poi con lei che si occupa proprio di queste cose parleremo anche di questo Recovery Fund, ossia di questa concessione di fatto tedesca. Questo è un grande passo, Claudio, a livello europeo, questa concessione tedesca. Grandissimo passo di una grandissima statista. Che si chiama Angela Merkel. Politica che studia bene anche le tattiche, i tempi, che appare una donna prudentissima, che viene, è sempre stata accusata di essere troppo prudente, ma che poi nei momenti decisivi sa fare il passo avanti che bisogna fare. Sì. E lo fa in un paese in cui esattamente 10 giorni fa più o meno c'è stato un violentissimo stop da parte della Corte alla Costituzionale, diciamo, a ipotesi come quelle che invece vengono avanti in questi giorni, sì, e cioè di un impegno finanziario serio per sostenere paesi d'Europa che si trovano in difficoltà. Allora, a proposito di questo, cosa vogliamo sentire, Carmelo Lauricella? Andiamo su Gualtieri, il ministro Gualtieri, che ci dice che è un buon inizio, via. È una proposta che va nella giusta direzione, che è quella che abbiamo auspicato, per cui ci siamo impegnati, avere un fondo per la ripresa finanziato con titoli comuni europei per sostenere i paesi e i settori più colpiti. E quindi tutti quei settori della nostra economia che hanno subito e subiscono in misura maggiore le conseguenze del coronavirus, penso per esempio al turismo, alla cultura e tanti altri. Oh, l'Italia voleva di più, lo ha detto anche ieri la prima reazione del ministro Patuanelli, voleva 1.500 miliardi, si arriverà a 1.000 miliardi, dice il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni, vediamo di sentirlo. Ieri Francia e Germania hanno parlato di 500 miliardi di sovvenzioni, siccome il fondo sarà un mix tra sovvenzioni e crediti agevolati, prestiti di lunga durata, vedrete che alla fine non saremo molto lontani da quelle cifre di cui abbiamo parlato, attorno al migliaio di miliardi in queste settimane. Su cosa si concentra la polemica? Perché c'è la polemica, innanzitutto sulla dimensione di tutto questo, e dall'altra parte si dice, però sono i francesi e i tedeschi che si accordano, non va bene, l'Italia è esclusa. Sentiamo sulla risposta del governo con il ministro Amendola. Non dobbiamo guardare in maniera provinciale a queste riunioni. L'Italia con la Francia dal 25 marzo si muove in maniera coordinata, abbiamo firmato documenti comuni, quindi è anche un buon risultato della spinta che abbiamo avuto tutti insieme per far fare un passo in avanti anche alla Germania, che aveva delle differenze rispetto a alcune posizioni nostre. Quindi muoviamo l'Europa in maniera unitaria, questo è l'importante passo di ieri, e continueremo a lavorare da qui a fine giugno per realizzare tutte queste scelte. Ci torniamo tra un attimo. Poi c'è tutto il capitolo politica italiana. Io vi faccio sentire un paio di voci. Vi premetto che secondo me c'è un po' di cinema su questa vicenda, perché nessuno ha voglia di andare a votare sulla questione della sfiducia a Bonafede. E poi però voglio sentire Claudio Velardi su questo. Sentiamo queste voci. Crimi, Vito Crimi. Sono convinto comunque che la maggioranza voterà compatta, perché diciamocelo con chiarezza, il ministro della giustizia è il nostro capodelegazione, il ministro della giustizia è un ministro importante, e se qualcuno della maggioranza ritiene di votare la sfiducia al ministro Bonafede, ovviamente è come se votassero la sfiducia al governo. L'ex di ormai gruppo misto, adesso non so più se è nel Movimento 5 Stelle oppure no, Gregorio De Falco, insomma, per intenderci, che fa un discorso in quale dice: allora, io ho sottoscritto la mozione di sfiducia della Bonino, di più Europa, eccetera, eccetera. C'è anche la firma di Richetti e così via. E però, per senso delle istituzioni, probabilmente questa mozione di sfiducia non la voterò, non è chiarissimo. E però il Bonafede e il governo devono fare una riflessione, sentiamolo, va. Però è bene che lui e il governo ne prendano atto. Prendano atto, cioè, che questo modo di amministrare la cosa pubblica, con una prescrizione senza limite, con delle scarcerazioni che vanno e vengono, sembra una porta girevole, insomma, è qualcosa di aberrante. Quindi ne traggano immediatamente le conclusioni, perché oggi non è per loro che eventualmente non si vota la sfiducia, ma è per gli italiani. Allora, caro Claudio, qua insomma alla fine nessuno vuol far esplodere questo caso, no? Cinema. Ma certo che non se ne parla proprio. Poi diciamo, qui non è in discussione questo, perché come ha detto il buon De Falco, ma come direbbe chiunque, in sostanza si trova un qualunque argomento, pur dicendo tutto il male possibile, e ce n'è da dirne, su Bonafede, su come amministra il ministero. Però ognuno trova il suo argomento per dire che non bisogna fare cadere il governo e non bisogna andare al voto, perché naturalmente ci tiene, comprensibilmente, figuriamoci, a mantenersi il seggio, diciamo, per dirla in maniera un po' volgare. Ma detto questo, adesso lo scontro politico è proiettato su altro, non tanto sulla vicenda Bonafede. Il vero scontro politico sottostante è quello di sempre tra Italia Viva e PD. Sì. Perché Renzi se ne starebbe tranquillino se gli dessero un bel posto di sottosegretario con il quale dire: beh, guardate, io Bonafede lo contrasto perché dentro il Ministero di Grazia e Giustizia c'è un mio uomo portatore di una linea diversa. Questo è l'obiettivo di Renzi. Naturalmente l'obiettivo del PD è quello, diciamo, di non rafforzare il potere contrattuale di Renzi. Quindi se accade una cosa del genere è il PD che ne esce un po' ammaccato, perché il vero contrasto, diciamo, di potere è lì dentro il governo, mentre i 5 Stelle svolgono un ruolo puramente residuale, pur essendo la forza maggioritaria in Parlamento, però in realtà non possono fare altro che resistere e stare a guardare, non hanno un ruolo politico attivo, questa è la verità. Sì, mi stai testimoniando ancora una volta, Claudio, che stiamo tornando alla normalità, o almeno la politica lo sta facendo. Allora, sentiamo cosa succede sulle strade e se succede qualcosa, e poi magari rientriamo direttamente con facciamo tre voci che vi voglio far sentire a testimonianza di come un po' di tensione tra enti locali, complessivamente intesi, e governo si continui a respirare. E sono tre voci che vengono da tre parti politiche diverse, perché sono Luca Zaia, governatore leghista del Veneto, sono Luigi De Magistris, il sindaco di Napoli, che ieri ha parlato di disastro del governo, e Beppe Sala, che era ospite da noi ieri a 24 mattino, mio di Maria Latella, e ha chiesto un rimpasto, che insomma, vuol dire, ieri ci ha anche detto, sì, Conte ha agito bene tutto sommato, però insomma di fatto chiede un rimpasto di governo, anche se dice non chiamiamolo così, sentiamo traffico e poi risentiamo tutti e tre. Mattino. Abbiamo avuto questo incontro notturno la domenica mattina all'una di notte fino alle 3 del mattino, e poi si è trovata una soluzione. Però nel frattempo abbiamo dovuto attendere fino alle 5 del pomeriggio di domenica per avere il testo. Cosa vuoi che le dica? Questo è quello che passa al convento. sulla scuola è un disastro, sulla lotta alle mafie è un disastro, sull'aiuto agli italiani è un disastro, sui sindaci abbiamo parlato, in questi momenti ci vuole chi ha coraggio, chi ha visione, chi è forte, non dire urlare a complotti che non esistono. Qua il tema che può far cadere il governo, che se l'esasperazione sociale cresce, tra un governo che ha fama e un popolo affamato, il sindaco di Napoli si mette sicuramente dalla parte del popolo affamato, questo è poco sicuro. E se dovessi dare un consiglio al presidente Conte, posto che ad oggi, al di là di tutte le chiacchiere, non vedo grandi alternative a questo governo, ecco, però deve rinforzare la sua struttura, il suo sistema, e anche qua faccio due esempi. In primis, la collaborazione tra tecnici e politici funziona per un breve periodo. Non voglio apparire irrispettoso nei confronti di nessuno, non è che la compagine ministeriale non possa essere rivista. Insomma, lo sentite. Cara Tonia Mastrobuoni, come stai, Tonia? Buongiorno dalla Germania. Buongiorno, bene. Corrispondente ciao, alla Germania Simone. Per Repubblica. Allora, Tonia, poi ti farò anche un paio di domande. Claudio Velardi, resta con noi, intanto. E ti farò anche una domandina su questa svolta franco-tedesca sul Recovery Fund. Però prima vorrei sapere da te come vanno le cose sul fronte Covid-19, perché insomma, da queste parti, come saprai, portiamo la Germania come esempio di gestione. Non è la prima volta e non è il primo caso sul quale portiamo per la Germania come esempio di gestione. Però come stanno andando le cose? Vai. Da tutti i punti diciamo bene, perché noi appunto qui in Germania abbiamo vissuto anche un lockdown molto meno pesante, siamo sempre potuti uscire, eccetera. E anche i numeri sono confortanti, perché il tasso di letalità è sempre stato molto basso, la situazione è sotto controllo, gli ospedali mai affollati, quindi la curva è stata appiattita, come direbbe Merkel, a cui piace sempre parlare col linguaggio scientifico, essendo una scienziata, è andata bene, hanno contenuto abbastanza velocemente il virus. Quello che non va bene per niente è che, nonostante le restrizioni siano ormai minime, aumentano queste proteste di piazza ogni sabato. Proteste di piazza che mettono insieme una zona cozzaglia di gente, ci sono neonazisti acclarati, c'era per esempio il vecchio capo dell'NPD in piazza Berlino, complottisti di ogni risma, c'è questo famoso chef vegano che dice che Bill Gates gli vuole iniettare dei microchip insieme ai vaccini, li non vuole, eccetera eccetera. Ma gente che ha un seguito pazzesco, e poi ci sono ovviamente i soliti matti così. Vabbè, però c'è anche gente di sinistra, cioè gente che non si sarebbe mai fatta vedere, non so, 2 o 3 anni fa in piazza con i neonazisti, che invece unita da questo negazionismo, chiamiamolo, del virus, c'è in piazza tutti i sabati. Cioè sono sostanzialmente, Tonia, negazionisti del virus, cioè dicono il virus non esiste, è un'invenzione dei poteri forti, insomma, per così dire. O non esiste, diciamo, o nella migliore delle ipotesi è un raffreddore, quindi insomma quindi sono anche pericolosi, perché scendono in piazza in massa, non tengono minimamente le distanze tra di loro, e il problema è che tra loro abbiamo anche ogni tanto visto qualche cittadino veramente un po', era come Pegida, insomma. Pegida non è un fenomeno così, è una piazza di destra islamofoba, ma c'era un sacco di gente normale che scendeva in piazza purtroppo con loro. E la stessa cosa è qui, cioè gente inquieta, gente che forse ha paura appunto perché ha perso il lavoro, perché è in cassa integrazione, che qua si chiama orario ridotto, e quindi appunto è difficile capire, anche perché queste piazze stiano crescendo, perché ormai, ripeto, i ristoranti ogni sabato sono aperti. Sì, i ristoranti sono aperti, cioè mancano solo le palestre e i concerti, non so come dire, quindi non si capisce bene. Si è praticamente quasi tornati alla normalità. Ascolta, Tonia, qualche ascoltatore ci dice la Germania sta bleffando, in realtà non conta i morti, come li contiamo noi? Guarda, ti dico, io per Repubblica ho scritto un pezzo che è stato uno dei pezzi che è andato meglio per il web in assoluto, ed è un pezzo in cui ho spiegato molto lungamente, molto estesamente, perché questa è una scemenza totale. I tedeschi hanno contato e come i morti. L'Istituto Koch, che è questa agenzia appunto sanitaria nazionale che centralizza tutti i dati, ha sempre calcolato i morti, anche contato tra i morti anche quelli che erano morti con il Covid, come si dice, no? Quindi sì. Venivano fatte le autopsie, veniva fatto l'esame post mortem e veniva stabilito questo. Il tasso di letalità è basso, è sempre stato basso per una serie di motivi. Perché l'età media dei contagiati era bassa, cioè mentre in Italia si sono contagiati tutti negli ospedali, negli ospizi, eccetera, all'inizio, quindi è stata una strage tra vecchi. In Germania i primi focolai sono stati un'azienda bavarese, dove la gente era mediamente molto giovane, sono stati le scolaresche e le famiglie che tornavano dalle vacanze in Tirolo, anche questi mediamente età molto bassa. Tanto è vero che il primo mese l'età media dei contagiati in Germania era 40 anni contro i 60 in sì. Italia. Quindi insomma erano molto più giovani. I focolai erano molto diversi. Quindi, e poi cioè, loro hanno semplicemente contenuto meglio il virus perché avevano 27.000 posti da terapia intensiva contro i nostri, non mi ricordo quanti erano all'inizio, 4.000? Sì, 4.000 circa, 4-5.000 circa. A 40.000, quindi non c'è mai stato neanche l'affollamento negli ospedali. Io continuo a girare questa bufala che loro nasconderebbero i morti. Io vorrei capire su quali dati si fonda questa idiozia, perché naturalmente tutti gli istituti, vabbè, i governi, eccetera, hanno sempre negato. Sai, Doria, sul fatto che i dati sono molto diversi, quindi le persone non sanno come spiegarselo e trovano questa spiegazione, che siccome ci hai ben detto, insomma, non è così in questo lungo pezzo scritto, appunto, che è andato, dicevi, molto bene sull'online. E Claudio Velardi, dunque, ecco come si gestisce una pandemia, eh? Sì, io aggiungerei, rispetto alla descrizione naturalmente perfetta di Tonia, un elemento che fa sempre un po' da sfondo, cioè l'azione, diciamo, di un sistema, una struttura che funziona. C'è un governo fatto di persone con la testa sulle spalle e c'è un senso di responsabilità, un buon senso, una cultura civica della popolazione che consente, diciamo, una sorta di autogestione o di gestione più morbida. Noi siamo stati bravissimi. Noi siamo bravi in un altro senso, nel senso che nelle emergenze ci inventiamo la qualunque per sopravvivere, sì. E questo va bene. Ma se invece avessimo da parte del governo una maggiore fiducia nei cittadini, perché il punto di fondo è questo qua, se il governo si fidasse di più dei cittadini, ci sarebbero meno norme capotiche, dispotiche, di difficile interpretazione e i cittadini gestirebbero in maniera più civile, con buon senso e senso di responsabilità, un'emergenza. Questo è il punto un po' che sta sullo sfondo di tutta quanta questa nostra discussione. Più tu sei duro, dispotico, più la gente si vuole ribellare. Ieri un ascoltatore mi ha scritto, guarda, ancora cito, mi ha scritto: durante la fase 1 prendevo la bicicletta, mettevo una mimetica nera e grigia e facevo 16 chilometri nelle campagne. Il tentativo di fuga. Ascoltatore, abbiamo veramente 30 secondi, molto rapidamente. È svolta grossa quella di ieri della Merkel nel colloquio con Macron su questo recovery fund a 500 miliardi, perché di fatto si apre al debito europeo, Enorme, sì, enorme, esatto, perché la Commissione europea potrà, anzitutto anche è un trasferimento di potere, non da poco, cioè anche la Merkel ha sempre picconato l'istituzione europea, ha sempre preferito l'intergovernamentale sin dal Trattato di Lisbona, quindi è una grande svolta anche politica, perché la Commissione europea avrà il potere di emettere questi bond e poi di dare, diciamo, i soldi che ricava dal mercato alle aree, attenzione, non ai paesi, alle aree colpite, perché per i tedeschi qui, io ho parlato con molti della CDU, mi hanno detto la cosa importante è che non venga dato ai paesi, ma alle aree, quindi sì, alla Lombardia, alle aziende, alla Lombardia, alle cose eccetera, e non ai paesi. Questo è stato, diciamo, il modo per fare il compromesso, per portare il compromesso a Bruxelles, che ha fatto col suo partito Angela Merkel, che è un dettaglio molto importante. Però, e poi l'altra svolta fondamentale è che sono trasferimenti, cioè non sono debiti. Merkel si è resa conto, non tanto, cioè ovviamente non si è mai sentita assediata da Giuseppe Conte. Ha fatto un ragionamento molto semplice. Primo, il governo è stato molto impressionato dalle immagini di Bergamo, eccetera. Sì, certo. No? Sappiamo che la Germania ha accolto anche pazienti tedeschi, sì, ricordiamolo, sì. Cioè, italiani, la Cina, sì, diciamo. Certo. E italiani, esatto. Certo. E poi l'altra cosa è che la Germania si è resa conto che l'Italia rischia di uscire dalla crisi con un debito gigantesco, gigantesco. Il che peserebbe quindi su tutta Europa, naturalmente. Dobbiamo veramente chiudere. Grazie Tonia Mastrobuoni, grazie Claudio Velardi, GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.